e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Occhi che sanno parlare. Oh Deborah, Papa Francesco ci stupisce ancora la notizia su tutti i giornali, sì, perché con tanto di foto. Chissà chi gliel'ha scattata, ho pensato dall'altro. Però viene sempre bene. Ah sì sì, lui è super fotogenico. Perché lui, proprio come una persona qualunque come noi, ieri nel tardo pomeriggio è entrato in un negozio di ottica in centro di Roma in via del Babuino, ha chiesto di cambiare le lenti. La montatura va bene così, perché non si cambia e si risparmia, perché la montatura picchia. E noi due lo sappiamo, perché li indossiamo entrambe gli occhiali. Deborah, quindi io sai cosa ho pensato? Che sì, Francesco è cuore denari, perché è attento alla salute e ha un occhio al portafoglio. Io dai, sogno che prima o poi alzi il telefono e chiami in diretta anche noi, sai che ci speriamo. Miracoli esistono, esatto, ci sono. Infatti. Allora, quindi oggi con l'aiuto del nostro esperto cercheremo di capire se anche noi come Papa Francesco abbiamo bisogno di sostituire le lenti, quali sono i segnali che ci devono invitare a farlo, ma vogliamo naturalmente parlare anche di chi gli occhiali vuole invece levarseli di torno dal naso, affidandosi magari alla chirurgia refrattiva, ma si parla anche già di una grande novità che dovrebbe correggere la miopia senza bisogno del laser. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, quando per la pagina di denari ci arriveremo, appunto, torneremo a parlarvi di questo, un termine un po' complicato, ma cercheremo di tradurre in termini semplici questo concetto di voluntary disclosure. Il nome appunto è in inglese, ma si tratta di una procedura tutta italiana, proprio adesione volontaria, collaborazione volontaria significa, che permette di far emergere le violazioni fiscali di chi ha detenuto o detiene capitali all'estero e vuole sistemare situazioni al limite. Perché ne parliamo proprio in queste settimane? Il tema di attualità, perché c'è tempo per concludere questa operazione di regolarizzazione entro il 30 settembre. E siccome è complicata, prendiamola un po' per tempo, speriamo che tutti coloro che dovevano farla abbiano già fatto una chiacchierata con il proprio commercialista. Per cui ci rivolgiamo ad ascoltatori più o meno lontani o che hanno vissuto più o meno lontani dall'Italia e che per qualche motivo hanno delle proprietà all'estero, una casa, un conto in banca, un piccolo investimento, e non sono sicuri che tutte le loro carte siano in regola. 800 24 00 24, abbiamo tra poco un commercialista tutto per voi. Un numero verde per vederci più chiaro. Dunque, Ralph mi ha detto che ti viene il mal di testa quando leggi, è così? Sì, è così. Adesso vedremo quello che si può fare. Dunque, coraggio, Fonzi. È sempre la seconda riga. Avanti. A L M P Q P T. Perfetto! Adesso con il destro, la riga successiva, per favore. Non ci riesco. Credo d'aver capito quello che hai. Il tuo problema è molto semplice. Vedi, l'occhio destro è più debole del sinistro e questo squilibrio provoca il mal di testa. Tieni, ecco qua. Devi mettere quelle gocce negli occhi, Fonzi. Un po' di gocce e basta? Per il momento, finché non saranno pronti gli occhiali. E noi parliamo di occhiali e Papa Francesco non avrà fatto come Fonzi, non gli avranno fatto sicuramente questi controlli, ma lo chiederemo. Una cosa è certa: quando gli occhiali non vanno più bene si cambiano, un salto dall'ottico, un controllo accurato e voilà, il gioco, anzi la lente è fatta, il Papa insegna. E la notizia che ha fatto il giro di tutti i giornali la commentiamo subito col dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima, il Fate Bene Fratelli di Milano, in diretta però da Barcellona, dove sono riuniti tutti gli oculisti europei. Buongiorno dottor Scialdone, grazie. Buongiorno per essere... a lei, buongiorno agli ascoltatori. Così le facciamo fare anche un po' da inviato. Un inviato speciale. Un inviato molto speciale. Molto. Dottor Scialdone, le sarà caduto l'occhio anche da Barcellona su questa notizia? Che cosa ha pensato? Sì, sì, sì. Beh, che il Papa ha fatto quello che viene normalmente fatto da tutti i cittadini, o dovrebbe essere fatto, un controllino degli occhiali ogni tanto quando si ha l'impressione, e la prima persona o il primo, diciamo, professionista a cui rivolgersi immediatamente, a cui viene naturale di rivolgersi, è l'ottico. Lui ha un ottico di fiducia evidentemente da cui era già stato in via del Babuino e ha fatto una cosa tipica sua, ma giustamente, come dire, molto popolare e molto diffusa, molto comune. 800 24 00 24, mettetevi in contatto con noi, parliamo dei segnali che dovrebbero invitarci, farci venire almeno l'idea, il sospetto che forse le lenti che indossiamo non vanno più bene. Diteci anche quanto spendete solitamente, perché qua abbiamo sempre anche la donna di denari che è molto attenta al portafoglio. Sì. Infatti anche... lui ha voluto cambiare solo le lenti, ma non la montatura, no, per appunto questo, diceva. Per questo ti dico, è veramente un uomo alla cuore denari. Naturalmente parleremo anche di bambini, i banchi di scuola, scuola, tra poco si aprono di nuovo le scuole, quindi sui banchi a volte vengono al pettine tanti nodi, disturbi visivi che magari non erano stati intercettati. E dato che siamo in collegamento col dottor Cialdone da Barcellona, le novità di cui stanno discutendo proprio gli oculisti. Dottor Cialdone, torniamo al Papa. Per cambiare le lenti, il Papa è andato dall'ottico che gli avrà fatto dei controlli. L'ottico naturalmente deve, non solo al Papa, prendere le misure, un po' come fa il sarto quando gli chiediamo di stringerci, allargarci o accorciarci, certo, un abito. È il suo mestiere. Certo, che cosa fa l'ottico? L'ottico verifica e controlla le correzioni ottiche. Per la verità, diciamo, da qualche anno c'è stato un po' un aggiornamento legislativo da questo punto di vista, nel senso che è stata introdotta molto recentemente la figura dell'optometrista, sì, che diciamo dovrebbe sostituire quella dell'ottico. L'optometrista è un laureato triennale di solito nelle facoltà di fisica e non in medicina, e apprende non solo la misurazione della vista ma anche le prescrizioni degli occhiali, e questo è il suo lavoro. Dovrebbe lavorare insieme all'oculista, nel senso di precederlo nelle misurazioni e poi affidargli le persone se qualcosa non la capisce o non torna nelle misurazioni. L'ottico classico è invece dovrebbe rimanere nei prossimi anni quello che poi esegue tecnicamente o controlla e verifica. È ovvio che ci sarà un avvicendamento generazionale, perché gli optometristi sono tutti ragazzi giovani oggi e gli ottici, la massa, sono tutte le generazioni, diciamo, un pochino più avanti con gli anni, che piano piano che andranno in pensione saranno sostituiti dagli optometristi. Vedi Deborah, a proposito di professioni, di nuove professioni che incalzano e sostituiscono, vanno a così ad affiancarsi alle professioni che erano tradizionali. Diciamo, certo. Allora, dottor Cialdone, io vorrei che lei aiutasse le persone da casa che portano gli occhiali a fare una sorta di autotest, in modo che, suggerendo magari alcuni segnali, alcune situazioni in cui possono magari trovarsi in difficoltà o notare dei cambiamenti, possono naturalmente subito chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, abbiamo detto, per vederci più chiare. Non è una battuta, ma è davvero così oggi, dottor Cialdone. Allora, la prima cosa da fare è, chi porta gli occhiali, indossarli, quelli da lontano, e prendere un obiettivo a distanza di almeno 3-4 metri, che sia fermo e non sia la televisione, che è una roba sempre in movimento, e chiudere un occhio per volta o strizzando l'occhio o mettendoci una mano davanti e verificare se la vista dei due occhi è simile, molto simile l'una all'altra. Se questo non fosse, prendere gli occhiali da vicino per chi ha una certa età e fare la stessa cosa da vicino. Sì. Se le due cose collimano, allora va tutto bene. Se ci vedo male da lontano, ma ci vedo bene da vicino con ambedue gli occhi, allora ho un problema di tipo ottico. Che sia l'occhiale andato, che sia la mia vista cambiata, che io abbia un difetto, adesso cito la cataratta tanto per chiarirsi, devo fare un controllo. Se invece il lontano e il vicino collimano fra di loro, nel senso che vedo le stesse cose, vedo bene in ambedue gli occhi, allora vuol dire che sono a posto. Se ho dei dubbi per lontano, faccio un confronto a una mezza distanza con e senza occhiali. Se con gli occhiali mi si annebbiano un po' le cose, evidentemente può darsi che gli occhiali siano andati e quindi siano da ripetere. Queste indicazioni, dottor Cialdone, possono naturalmente seguirle anche le persone che gli occhiali non li portano ancora. Naturalmente, però in questo caso ovviamente qualsiasi anomalia non può essere attribuita alla lente. Certo, vuol dire che c'è qualcosa che non... Ma alla nostra macchina fotografica naturale. Devo dire un'altra cosa, già che ci siamo, che anche chi non ha occhiali, questa è la stagione, una delle due stagioni dell'anno in cui si verificano molto più frequentemente la comparsa di nuvolette, cioè le alterazioni del vitreo. Si vede all'improvviso in autunno, in primavera, tante persone che hanno delle nuvolette che all'improvviso gli vengono davanti e gli danno fastidio, come se avessi una mosca nell'occhio, qualcosa che non quadra. Quello è una cosa, diciamo, visivamente innocua, ma da controllare, in questo caso da un oculista. Perché, dottor Cialdone? Perché noi parliamo spesso quando trattiamo temi relativi al alla vista di queste famose mosche volanti che sono molto fastidiose, tanto che mi ricordo in una puntata il professor Nucci, che sentiremo per dare delle indicazioni ai genitori all'ascolto che hanno bambini che stanno iniziando la scuola, il professor Nucci suggeriva di farcele amiche, no? Chiamarle per nome, così facciamo, no? Instauriamo con loro una buona relazione, non ci facciamo troppo infastidire. Ma professor dottor Cialdone, queste mosche volanti che noi avvertiamo specie in alcuni periodi dell'anno e in alcune condizioni, no? Più che il contrasto di luce, quando devono essere portate all'attenzione dell'oculista? Perché solitamente si dice no, ce le hanno tutte, non ti preoccupare, no, certo. Ma qual è che fa la differenza? La differenza sono le macchiette molto grosse e che compaiono all'improvviso. Il vitro, cioè la gelatina che c'è nell'occhio, va incontro con gli anni a un po' di degenerazione, un po' come le cartilagini delle articolazioni. Sì. Il tempo colpisce, quindi quelle effettivamente ci sono, ci saranno, ce le teniamo, ma quando vedo delle grosse nuvole all'improvviso che mi spaventano, guardi, la sensazione è Dio mio cosa mi sta succedendo, in quel caso, essendo un fenomeno improvviso il collasso, conviene farsi dare un'occhiatina, soprattutto se ci sono anche dei flash luminosi, e ecco, il rischio è per la retina. Ecco, i flash luminosi, chi li ha provati li riconosce, perché ci sono delle persone che, sentendo questa notizia, ci sono i lampi di luce, tu vedi i lampi, dici ma avrò visto per caso un lampo, vero dottor Cialdone? Esatto, chi li prova ha nettamente la come se fosse esterno, come se fossi un po' flashata, vero? Come Papa Francesco flashato mentre andava dall'ottico. Vede. Allora, in questi casi a essere a rischio è la nostra retina, che è la parte più nobile del nostro occhio. Certo, il collasso del vitreo è come se la gelatina, diciamo, collassasse su se stessa come un soufflé. Sì. A questo punto, in alcune persone, fortunatamente statisticamente poche, perché ogni 10.000 persone c'è un distacco di retina, quindi è una cosa relativamente rara, però quando avviene... il vitreo si trascina la retina dietro, è come prendere una camicia e dargli una grossa stiracchiata. Mi si forma un buco, da lì si infiltra il liquido, la retina si distacca e la persona, diciamo, l'occhio va operato. I risultati sono buoni, però l'intervento va fatto abbastanza presto e poi comunque la sintomatologia è inequivocabile, diciamo. 800 24 00 24, adesso andiamo a sentire mi veniva ai mercati invece il traffico, adesso il traffico, e intanto questo ci dà modo per anticiparvi che parleremo anche della difficoltà alla guida, perché ci sono persone che portano gli occhiali, che devono guidare, l'occhio si stanca, ma anche chi gli occhiali non li porta nota magari nella difficoltà nel guidare al buio, vede gli aloni, no? Dei lampioni in modo diverso, le luci danno più fastidio, però non si decide a fare il controllo. Brava, perché magari è un po' paura dell'oculista, ma talvolta anche paura di spendere, perché comunque poi gli occhiali tante costano. Cose, una presa di consapevolezza, un po' dell'età che avanza, diciamo che ci sono un po' tanti aspetti, però qua dobbiamo affrontarli molto lucidamente. Ad esempio Antonio da Latina lamenta che le lenti progressive su costruzione sono esageratamente care in Italia, mentre in Messico, Stati Uniti, dice che costano un po' meno. Non ho avuto modo di appurare, ma magari faremo un'indagine. 800 24 00 24, seguite l'esempio di Mario da Pordenone, che sentiremo subito dopo le informazioni sul traffico, tra poco. Cuore e denari. E noi abbiamo un appuntamento con Mario, ci chiama da Pordenone, 800 24 00 24, un nostro ascoltatore che ci aiuta a vederci chiaro. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io ho questo problema, intanto l'età, ma quella non è un problema, vantaggio. Sì, è un vantaggio. 53 anni, fra poco 54, da un po' di tempo a questa parte mi sono accorto che le mie prolunghe stanno per terminare, cioè le braccia, quindi io è ho vero. Difficoltà a vedere da vicino. La cosa che volevo chiedere è che noto questa maggior difficoltà soprattutto la mattina appena sveglio, poi durante il giorno... ho molto meno difficoltà e ovviamente la difficoltà riaumenta la sera. Senta Mario, provato... ma lei sta già portando gli occhiali con la correzione da presbite o no? No. Perché ho provato qualche di questi qualcuno di questi occhiali pronto cassa, di quelli che si trovano sui banconi, così con un grado, effettivamente mi rendo conto che quando li indosso vedo un po' meglio, però dopo un po' mi danno un fastidio tremendo. L'occhiale pronto cassa, insomma, no, non però, è adeguato, vabbè, anche all'usa e getta. Io insomma, io li uso spesso anche perché non lo confessare, che lo sai che poi Sheldone ti ma non penso, ma adesso poi sgrigli. Andremo a vedere, anche perché dottor Sheldone, ne abbiamo parlato tante volte, ci sono, riguardo alla presbiopia, due, per chi vede bene ha solamente questo difetto, che in realtà non è un difetto, sono gli anni, no? È fisiologico, quindi già un'evoluzione, mi piace. C'è chi dice non mettergli subito perché altrimenti poi gli occhi si impigriscono e quindi il problema peggiora. C'è altri invece che dicono no, dai, se no sei diventato presbite, anche una correzione piccola, 1,5-2, se no poi il tuo occhio si stanca, si arrossa, ti viene mal di testa. Lei da che parte sta? Nel mezzo, perché è comodo, è quello che ha fatto Mario. Sì. Mario si alza a 54 anni, è stato o è fortunato e anche un po', come dire, otticamente forzuto, perché i suoi muscoli hanno retto fino a 54 anni da vicino. Da mattina, quando è riposato, i suoi muscoli oculari ce la fanno a mettere a fuoco, dopodiché durante il giorno non ce la fanno più. No? È come sollevare dei pesi un po' troppo grossi. All'inizio magari due volte lo faccio, poi non ce la faccio più. Quindi ecco perché Mario arriva al pomeriggio, però poi con gli occhiali non ci vede bene perché la scelta è a casaccio. Potrebbe essere astigmatico, per esempio, la prima cosa che mi viene in mente. Ma perché, cui... scusi, cosa le fa venire? No, a parte che lei è un oculista, ho capito, no, ma da che cosa? Dalla dice, chiacchierata di Mario? Metto, ma dopo un po' me li devo levare perché mi danno fastidio. Ah, vedi? E quindi c'è qualcosa che non quadra. Ma che cosa ha fatto? Ha preso il primo che gli capitava, che un po' l'aiuta, ma evidentemente magari c'è una differenza fra i due occhi. Insomma, ci potrebbe essere una cosa qualsiasi. Se Mario entra da un ottico, accanto al negozio dove ha comprato quelli pronto cassa, e magari si fa verificare. Che cosa si fa verificare, Mario? Così chiediamo. Gli ottici ormai hanno quasi dappertutto delle strumentazioni automatiche che quindi misurano sia la capacità accomodativa che il difetto refrattivo con una certa buona approssimazione. Dopodiché lo mettono di fronte al cartellone con la misura fatta dalla macchina, glieli provano e verificano che effettivamente la persona ci veda ragionevolmente bene. Se qualcosa non quadra, a quel punto l'ottico farà ulteriori verifiche, dopodiché scatta il consiglio di andare dall'oculista perché qualcosa non quadra. E speriamo di no. Mario, come tanti, ha preso come prima scelta degli occhiali già con già la correzione, questi da banco li ha definiti, insomma, si trovano dalla farmacia, nei supermercati, sui banchetti, nei negozi un po' con montature molto carine. Ci sono delle persone a cui è sconsigliato indossare questi occhialini, oppure se ci si trova bene, perché no? Ecco, no, possono diventare anche... No, il concetto fondamentale è cercare di ridurre la tolleranza per le imperfezioni. Me li compro, sono fuori, li uso. Se vedo bene, questo a prescindere dal fatto che chiunque arrivato a una certa età un controllino dovrebbe far comunque, questo abbiamo detto tante volte per la cosa. Però dal punto di vista puramente ottico e visivo, li compro, ne ho bisogno, mi vanno discretamente bene, so perché ho già fatto un controllo che posso usare anche una cosa di questo, economicamente va bene. Diversa la situazione in cui non ho mai fatto un controllo, non so come sta la mia vista, non so se ho un difetto, mi compro questo e tiro a campà. È un po' diverso dall'altra situazione, no? No, è stato chiaro. Abbiamo Marco da Mantova, ma prima vorrei così completare. Ma se io ho un disturbo, un difetto refrattivo che non correggo in modo adeguato, diciamo. Oppure sono presbite e sono leggermente astigmatico, lei ha segnalato appunto questo campanello che potrebbe essere il mal di testa. Che cosa mi succede se non lo correggo adeguatamente e utilizzo degli occhiali che non sono inadeguati? Cioè, vado avanti a soffrire, non mi viene nessuna malattia, questo però volevo vado avanti sapere. A soffrire, mi viene mal di testa, non resisto al computer, magari sono nervoso e litigo con mia moglie, non lo so. adesso che questo sia basta, questo, allora. Su questo guardi, non mi trovo assolutamente d'accordo, perché per voi ogni cosa è buona. Adesso se offriamo anche lo spunto dell'occhiale, scusa, sono nervosa perché c'è l'occhiale sbagliato, ma vai dall'ottico. Vabbè, allora, insomma, se si vede il marito un po' nervoso, suggeriamogli di andare a farsi un controllino alla vista, perché magari può essere quello. Sposate uomini senza occhiali. Marco da Mantova, perché intanto poi li mettono tutti. Marco, buongiorno da Mantova. Magari ricordiamo anche Nicoletta che per i bambini fra un po' arriva il professor Paolo Nucci. Sì, abbiamo già delle domande di una infatti, mamma. Per esempio, esatto, c'era questa signora, credo che sia una signora, in realtà non si firma, che racconta della situazione della sua bambina di 5 anni che ha l'occhio pigro, porta l'occlusore per 3 ore al giorno. Proprio ieri hanno avuto il controllo, la vista è migliorata, le lenti però non vanno adeguate, dice, è giusto, soprattutto si guarisce oppure no, come dice la nostra oculista pediatra, appunto con le dottor Nucci, che insieme a Scialdone tutti a Barcellona. Come mai, dottor Scialdone, questo congresso non è stato fatto a Casal Pusterlingo? Ma perché ha parlato congresso... con sua moglie, no, Deborah. Non so che cosa, ma in realtà la società europea è itinerante, ogni anno vengono cambiate le grandi città, anche perché lei capisce che ospitare 5-6 mila oculisti in grandi auditorium tutti insieme non è facilissimo. Comunque, io sono moglie di medico, dottor Scialdone, secondo me voi vi siete preparati, tutti i medici si sono preparati questa risposta da dare alla moglie. La capienza dell'auditorium. Siamo tanti, è una cosa itinerante, va bene, io non faccio finta di niente. Torniamo sul percorso scientifico di questa mattina. Marco, buongiorno da Mantova. Buongiorno a tutti. Due cose veloci. Io uso, premetto che uso un occhiale da vicino, lavorando molto col computer, un più uno e mezzo. Sì, la voce però, abbiamo problemi sia di occhi che di voce. Lo richiamiamo tra poco. Passiamo a Vincenzo da Monza. Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io questo percorso, appunto, penso miope e presbite, perché vedevo da lontano e da vicino. So. Sì, è normale diventare presbite. Qual è il suo problema? Vediamo se magari è uguale a quello del Papa. Sono stato operato di cataratta qualche mese fa e adesso dall'occhio dove sono stato operato vedo da lontano, vedo abbastanza bene. E da poi, vicino? Mica tanto. No, da vicino. Allora, Vincenzo si ferma con noi. Noi andiamo a sentire il nostro GR. Ritorniamo subito dopo insieme. A tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Cuore e denari. Stavo cantando, non preoccupatevi, non facciamo una puntata sulla voce e sulla gola, era solo per portarci al ritornello di questa canzone che dice alziamoci quando settembre finisce. Lo cantano i Green Day, sarà meglio svegliarsi un po' prima però della fine di settembre. Il termine ultimo è il giorno 30, per chi ha questo termine, per chi vuole mettersi in regola con la voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria che permette di far emergere le piccole e grandi violazioni fiscali che spesso avvengono anche in totale buona fede, perché questo va detto, qua non parliamo solo di grandi evasori fiscali, parliamo di chi ha detenuto o detiene capitali all'estero perché magari ha lavorato per un po' in un altro paese o perché si è comprato una piccola casetta fuori dal nostro confine. E allora, è il vostro caso? Avete regolarizzato la vostra posizione con il fisco? È un nuovo scudo fiscale? Ne parleremo tra poco con il nostro esperto. Voi intanto iniziate a raccontarci quello che vi è successo, come vi state regolarizzando all'800 24 00 24. Occhi neri, assoluti e sinceri. Di che colore ha gli occhi, Papa Francesco? Secondo me verdini. È sul verdino, sì, o comunque un nocciola brillante, un nocciola chiaro. Adesso andiamo, aspetta che intanto che tu concludi il tuo ragionamento con i nostri ospiti io cerco una bella immagine. Comunque, dottor Sheldone è sicuramente presbite e poi alcuni giornali hanno riportati per metro, per altri astigmatico, insomma i difetti, forse porterà delle lenti progressive però. Sì, secondo me, perché vedo che quando fa discorsi, legge, eccetera, non toglie, non cambia mai gli occhiali. Lei sa che chi è ipermetrope ed è presbite si ha un occhiale monofocale, cioè che focalizza una distanza sola, tra lontano e il vicino deve cambiare per forza gli occhiali. Invece Papa Francesco li tiene su, quindi credo che ragionevolmente abbia un progressivo, che è un ottimo occhiale. Ecco, che è un ottimo occhiale, ma che crea molti problemi agli ascoltatori di Radio 24. Sono almeno arrivati una dozzina di messaggi di ascoltatori che lamentano di fare un po' fatica ad abituarsi a questi occhiali, si sbaglia qualcosa, sono sbagliate le lenti, dottor Sheldone, così poi torniamo da Vincenzo da Monza. Allora io do un messaggio per far capire, gli occhiali progressivi sono gli occhiali, diciamo, che ci riportano in parte un po' alla giovinezza, li metto su e faccio quello che voglio alla distanza che voglio, però sono occhiali di costruzione ottica un po' critica, devono essere precisi. Mentre il monofocale leggermente decentrato non cambia sostanzialmente niente per le diottrie normali, progressivo deve essere preciso. Ecco perché sia l'ottico sia chi fa il montaggio, che spesso oggi nelle grandi città sono dei grandi laboratori, sì, devono essere precisi. E può capitare, perché le nostre facce non sono di plastica tutte uguali, quindi l'occhiale che invece ha una montatura regolare può avere delle cose leggermente, come dire, sfasate da un punto di vista della centratura. Torniamo indietro con tranquillità e spieghiamo all'ottico cosa non quadra e l'ottico ce lo sistema. Non arrendiamoci al fatto che l'occhiale arriva, non me lo trovo subito, vabbè, mettilo lì che tanto ho già capito che non fa per me. L'occhiale fa per quasi tutti. Dottor Sheldone, Vincenzo da Monza, che non riprendiamo ma è in linea, accusava un problema dopo essere stato operato di cataratta, non vede più quando bene come da entrambi gli occhi. Questi problemi dopo le operazioni di cataratta sono che cosa devono suggerire? Naturalmente si ritorna dall'oculista, ma sono frequenti? Pronto? Sì. Eccoci, mi sembra che Vincenzo fosse un po', come dire, sorpreso, perplesso per il fatto che è cambiata la focalizzazione della sua vista. Quando si fa un intervento di cataratta è bene parlare un attimo, anche un po' di più, con il chirurgo o con chi ci prepara per chiarire quali tipi di diottrie vogliamo dopo l'intervento, sì, visto che possiamo scegliere questo, parlandone un attimo prima. Lui era miope, ha perso la miopia e quindi è diventato per lui, nella sua sensazione, più presbite di prima, certo, e quindi si trova un po' sfasato. Quindi allora, se avete dei dubbi comunque, quindi parlate bene con il vostro oculista. Tantissime telefonate oggi a cuore denari, perché i portatori di occhiali sono tanti, ma soprattutto perché la vista è un bene prezioso. Che scriveteci, naturalmente noi parleremo e cercheremo di trovare una risposta con i nostri esperti. Deborah? Sì, no, ovviamente mi vanno gli occhi sui messaggi di denari. Marco da Ferrara, un nostro amico, peraltro ci scrive spessissimo, lo ringraziamo, chiede se la spesa degli occhiali da vista può essere detratta come spesa medica. Le dico di sì, quindi dal 7.30 può tranquillamente detrarla come spesa sanitaria, Marco. Allora, noi vogliamo salutare anche il professor Paolo Nucci, l'abbiamo anticipato, volevamo proprio fare un brevissimo focus sulla vista dei nostri bambini, a cui dedicheremo sicuramente una puntata perché tra poco si aprono le scuole. Professor Nucci, direttore della clinica oculistica universitaria all'ospedale San Giuseppe di Milano, anche lei al convegno di Barcellona. Professor Nucci, buongiorno. Buongiorno a voi. Esco proprio adesso dalla sala di apertura di un congresso dove ci sono 1400 oculisti che parlano di bambini. Ci sono delle novità interessanti per gli ascoltatori di Radio 24? Direi molte che riguardano la genetica, cioè la possibilità oggi per noi di fare delle diagnosi precocissime, forse anche di poter interagire con le malattie più gravi proprio sui geni, con la bioingegneria, con la biogenetica. Notizie molto utili anche per i nuovi apparecchi, che oggi c'è un'obsolescenza delle nostre macchine. Io ne ho comprati due nuovi 2 anni fa, oggi sono venuto qui e ce ne sono di gran lunga migliori, quindi bisogna mettere un po' mano al portafoglio. Questo lo devono capire sia le amministrazioni degli ospedali sia il governo, perché e naturalmente gli strumenti cambiano, ci sono grandi prospettive, non posso accettare io di avere uno strumento comprato 2 anni fa che oramai è vecchio. Professor Nucci, dedicheremo una puntata approfondita su questo tema, sulla salute della vista dei nostri bambini, ma sicuramente si aprono le scuole e poi sui banchi di scuola vengono intercettate dei disturbi che magari a casa non si erano visti in modo chiaro. Il bambino lamenta mal di testa, difficoltà a vedere la lavagna, lacrimazione. Ma due indicazioni per i genitori che di bambini in età scolare. Fidarsi intanto del proprio pediatra di famiglia, che dovrebbe sempre più prendere questo ruolo di gatekeeper, cioè di uscire di questo sistema, perché purtroppo non tutti i bambini si rivolgono ai centri di screening dove ci sono ortottisti e oculisti che questo sanno fare. Quindi i pediatri bisogna sensibilizzarli, ma bisogna anche crederci. Seguire anche con interesse quello che le maestre ti dicono, perché è un bambino che è francamente con in difficoltà a vedere la lavagna, che si avvicina spesso alla lavagna oppure che strizza molto gli occhi, è sicuramente da intercettare, da inviare all'oculista. E poi ci sono alcuni elementi come il fatto che l'occhio diventi particolarmente rosso in certe situazioni, che devono allarmare un po' il genitore, anzi diciamo non allarmare ma allertare. Professor Nucci, la mia bambina di 5 anni ha l'occhio pigro, porta l'occlusore per 3 ore al dì. Ieri abbiamo avuto il controllo, la vista è migliorata, ma le lenti non dobbiamo adeguarle, è giusto? E soprattutto, si guarisce oppure no, come dice la nostra oculista pediatra? Si guarisce diciamo in parte, nel senso che l'occhio pigro recupera moltissimo, ma forse non riesce mai a raggiungere la capacità dell'occhio buono, quindi bisogna avere uno sguardo attento e vigile che le cose non ritornino indietro. Secondo, l'occhiale è giusto che, se è stato dato correttamente all'inizio, non venga cambiato, anche se il bambino ha una frequenza di cambio, di mutazione della lente più maggiore rispetto all'adulto. Quindi non preoccuparsi se l'occhiale cambia, ma neanche se l'occhiale rimane invariato. Grazie. Grazie al professor Nucci per essere stato con noi. Al dottor Scialdone, li lasciamo a Barcellona. Buon convegno. Grazie per gli aggiornamenti e per il tempo che ci avete dedicato, suggerito naturalmente dalla notizia di Papa Francesco, che tra poco poi andrà a prendere le sue lenti. Ci fornisce, esatto, un tema al giorno da poter commentare. Tra l'altro ho trovato qualche specifica in più per quello che riguarda la detrazione appunto di spese sostenute per l'acquisto di occhiali. C'è una circolare, lo dico a Marco, è del 2000, ancora valida, una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la numero 95/ e chiaramente questa spesa può essere detratta, ma deve essere documentata, oltre che dallo scontrino fiscale, anche da un'attestazione dell'ottico dalla quale risulti che l'acquisto di questa protesi è necessaria a sopperire ad una patologia della vista, appunto, del contribuente o dei suoi familiari a carico. Quindi speriamo di aver detto tutto chiaramente. Manca il colore degli occhi di Papa Francesco. Allora, io ho aperto le fotografie . E qua secondo me si apre il dibattito. Magari chiediamo ai nostri ascoltatori se sono più orientati sul verdino o sul nocciola chiaro. Per me sono più nocciola chiaro. Secondo me se le guardi tu dici che sono un po' più sul verde. Dici, va bene. Perché a me piacciono gli occhi chiari. Apriamo il sondaggio fra i nostri ascoltatori. Se volete scriveteci al 349-238-6666. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso. È una vecchia soffitta vicina. Allora, perché abbiamo scomodato questa canzone? Qualcuno probabilmente se lo ricorderà. Perché l'ultima volta che abbiamo parlato di questo argomento, diversi mesi fa, era stato in occasione di un'altra notizia di cronaca che aveva visto come malcapitato protagonista un artista molto famoso, Gino Paoli, che era indagato dalla Procura di Genova per evasione fiscale. Gli accertamenti sull'artista riguardavano trasferimenti di denaro all'estero, cioè 2 milioni di euro portati in Svizzera. Noccioline. Avevamo colto l'occasione per fare un punto sulle regole che erano state varate proprio in quei giorni, che disciplinano il trasferimento di denaro all'estero, cioè non esattamente le regole che disciplinano il trasferimento del denaro all'estero. In quel periodo, a dicembre, erano state varate le regole che disciplinano la voluntary disclosure, cioè la procedura italiana che permette di far emergere le violazioni fiscali di chi ha detenuto o detiene capitali in qualunque forma all'estero e vuole sistemare appunto la propria situazione, in particolar modo quelle che sono al limite. La procedura è entrata nel vivo perché mancano pochi giorni alla collaborazione volontaria per sanare il rientro dei capitali detenuti all'estero. Spesso ci sono anche situazioni di totale buona fede di chi deve solo capire come regolare con il fisco italiano. Non è detto appunto che stiamo parlando solo di, come dire, orde di grandi evasori. Nelle scorse settimane l'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare con tutti i dettagli per procedere a questa operazione, dettagli anche un po' tecnici, non semplicissimi, dicono chiaramente così anche i consulenti fiscali che si stanno occupando della materia, e noi ne abbiamo interpellato uno che mettiamo oggi a totale disposizione dei nostri ascoltatori, dottor Fabio Guffanti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Grazie per la sua partecipazione, consulente fiscale, anche esperto su questi temi per il Sole 24 Ore. Agli ascoltatori, chiamateci se avete il dubbio che una somma o un immobile all'estero vi metta in una situazione irregolare, magari perché avete lavorato o vissuto per un periodo fuori dall'Italia. Le persone di cui parliamo oggi, quindi appunto lo ribadiamo con forza, non sono i grandi evasori fiscali che ho citato in questa introduzione, peraltro non so neanche come sia finita la vicenda di Gino Paoli, perché tra l'altro poi i grandi evasori dubito che chiamerebbero Cuore Denari per chiederci suggerimenti. Magari si mettono una mano sul cuore, esatto, e dicono. Però insomma andiamo ai casi, quelli che possono essere un po' più diffusi, quindi se volete scriveteci anche al 349-238-6666. Dottor Guffanti, andiamo subito al riepilogo della questione. I nostri ascoltatori sono anche appassionati di riferimenti legislativi e termini di legge. La normativa di riferimento in questo caso è la legge 15 dicembre dello scorso anno, la numero 186, che reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. In sostanza è l'ennesimo scudo fiscale, dottor Guffanti? No, direi proprio di no, perché con lo scudo fiscale, come tutti sanno, era garantita la segretazione nella segnalazione dei capitali detenuti all'estero. L'istanza veniva presentata a un intermediario finanziario che la tratteneva presso di sé senza comunicare nulla all'Agenzia delle Entrate. In questo caso invece non c'è nessuna segretazione, perché il contribuente, tramite professionisti abilitati, deve presentare un'autodenuncia nominativa all'Agenzia delle Entrate, quindi esce allo scoperto. E oltretutto poi in questo caso deve anche allegare tutta una serie di documentazione a supporto, cosa che invece non faceva con lo scudo fiscale. Con le operazioni precedenti. Dottor Guffanti, allora andiamo subito alla concretezza che ci piace molto qui a Cuore Denari. Una cosa si deve fare e chi deve farlo. Il tempo vola, la scadenza ultima per regolarizzare la propria posizione è il 30 settembre, quindi diciamo che la puntata di oggi è per chi è un po' in ritardo, oppure la gran parte dei contribuenti interessati si sta muovendo proprio in queste ultime settimane, anche perché mi pare di capire che le istruzioni definitive dell'Agenzia delle Entrate siano arrivate proprio pochissimi giorni fa. Ma diciamo che l'Agenzia delle Entrate sta sfornando chiarimenti su chiarimenti a tutto spiano. Ne è uscita una a metà luglio, un'altra l'11 d'agosto, un'altra il 28 di agosto, anche se devo dire che nelle ultime due circolari grosse novità non ne sono assolutamente emerse. Il problema dei ritardi è anche dovuto però alle banche estere, perché in molti casi parliamo di ritardi di 2-3 mesi nella consegna della documentazione, e io ho qualche cliente che sta ancora aspettando la documentazione dalle banche pur avendone fatto richiesta ai primi di luglio. Mm-hmm. Quindi questo secondo me dovrebbe comunque far ben pensare il nostro governo nel concedere una proroga, come era anche stata fatta con l'ultima edizione dello scudo, magari con una maggiorazione in termini di sanzioni, piuttosto che dicendo che il periodo di imposta 2010 che scadrebbe come accertamento il 31 di dicembre 2015 comunque rientra lo stesso nell'ambito della procedura in maniera tale che non si perda un'annualità ai fini accertativi. Quindi mi ribadisce un po' questo aspetto, dottor Gufanti: entro il 30 settembre chi sta regolarizzando le proprie posizioni e non ha bisogno di deroghe, anche se poi le faccio sentire proroghe, qualche ascoltatore che invece la pensa come lei, sana che tipo di periodo fiscale teoricamente non corretto, non regolare? Allora, sana, diciamo, dal 2009 per quanto riguarda le violazioni di monitoraggio fiscale, detto in parole povere la denuncia degli investimenti che aveva all'estero, e sana invece dal 2010 per quel che riguarda la mancata denuncia di redditi prodotti all'estero. Quindi diciamo che c'è uno sfasamento di un anno tra la denuncia degli investimenti e la denuncia dei relativi redditi. Sentirei subito Angelo da Monza, che mi pare di capire sia molto sensibile proprio sulla questione della necessità della proroga. Insomma, ha bisogno di più tempo, insomma, Angelo. Dice il 30 settembre è già qui. Non ce la fa. Angelo. Sì, buongiorno. Ci dica. Buongiorno. Sono un commercialista, sono al lavoro in questo momento. La sento che ha già la voce un po' provata. Sì. Il rientro è stato durissimo. Quale rientro? Non è mai uscito da quella porta del suo ufficio. Esatto, per entrare bisogna essere andati via prima. E io non ho potuto farlo. Si parla da mesi di questa proroga perché l'Agenzia delle Entrate si è presa 8 mesi a partire dalla legge e continua a produrre circolari che chiariscono solo una parte dei problemi. Quali sono quelli con cui si sta imbattendo lei, Angelo? Quali sono le situazioni più complicate che sta cercando di gestire? Situazioni, per esempio, gruppi familiari in cui sono presenti delle successioni intervenute nel periodo 2009-2013. Solo oggi sul vostro giornale usciva un articolo sull'attenzione che bisogna porre al momento in cui presentare la denuncia di successione integrativa, certo. Perché spesso chi aveva capitali all'estero gli eredi di chi aveva capitali all'estero non hanno inserito questi valori nelle denunce di successione. E tutte cose, poi anche nella quantificazione dei valori, fare molta attenzione, i dubbi sorgono. Certo. Molto velocemente. Guardi, le dico una cosa: con Fabio Guffanti ce lo siamo detti prima di iniziare la trasmissione, cerchiamo di mandare dei messaggi, anche non so quanto possano essere autorevoli quelli che arrivano da Cuore e Denari, se fossero indirizzati all'Agenzia delle Entrate o addirittura all'esecutivo. C'è necessità comunque di darvi un po' più tempo, perché ci sono tante situazioni molto complicate. Ribadisco, dottor Guffanti, qua non parliamo di evasori fiscali che hanno fatto chissà che cosa, magari banalmente investimenti all'estero. Adesso si avviano delle pratiche di successione di eredità che non si sa bene come disciplinare in virtù di questa norma, quindi non è che parliamo qua di delinquenti, ma di contribuenti che banalmente affrontano una normativa italiana farraginosa. Assolutamente sì, anche perché bisogna dire che negli anni passati purtroppo consulenti svizzeri, monegaschi, Liechtenstein o di altri paesi ex paradisi fiscali, dico ex nel senso che a febbraio-marzo hanno firmato dei protocolli di intesa collaborativa con l'Italia, dicevo, questi consulenti avevano costruito delle strutture che all'epoca potevano sembrare fantastiche per celare denari, investimenti all'estero, ma oggi quando ci troviamo in fase di denuncia, come diceva anche poco fa il collega di Monza, appare come sia estremamente complesso smontare questi veicoli, ma come altrettanto complesso sia poi denunciarli e trasferire queste strutture in sede di istanza e poi di relazione accompagnatoria che va mandata all'Agenzia delle Entrate. Mamma mia, che mal di testa qua, e non perché la vista ha qualche problema, ma perché davvero è un tema assolutamente complicato che ci scoraggia anche dall'eventuale quale velleità di comprarci qualche casa all'estero, andare a lavorare fuori, perché è solo per far rientrare un conto corrente aperto per un accredito di uno stipendio se abbiamo lavorato magari temporaneamente in un'altra nazione, qua riportare poi tutto in Italia, quindi immaginate poi le situazioni più complesse. Direi che ci possiamo fermare un attimo, ci prendiamo una pausa. Tu ti fermi e ricominci praticamente, esatto. Ci fermiamo noi e ti stiamo a sentire, andiamo a sentire che cosa sta succedendo nei mercati. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Cuore e denari. Regia ballano, adesso te lo voglio dire. Ma se dire. Le scelgono apposta le canzoni, te l'ho detto, che c'è, qua c'è questa furberia un po' per, non so se per rendere più gradevole anche il tema che stiamo affrontando questa mattina, che veramente rischia di andare indigesto un po' a tutti i nostri ascoltatori, forse un po' meno a quelli che invece proprio sono alle prese con il tentativo di risolvere questo problema, come comportarsi con capitale detenuto all'estero, un investimento fatto magari tempo addietro e che oggi deve essere reso cristallino nei confronti del fisco italiano, oppure abbiamo lavorato un po' all'estero e adesso il fisco italiano finalmente glielo dobbiamo dire perché ce ne siamo dimenticati. C'è tutta questa possibilità di tra virgolette sanare la propria posizione con la voluntary disclosure, questa procedura di collaborazione volontaria con il fisco italiano, ma attenzione, c'è tempo fino al 30 settembre. In realtà le situazioni che si presentano ai commercialisti sono ben più complicate delle tre che abbiamo esemplificato poco fa. Ne stiamo parlando stamattina con Fabio Guffanti, nostro consulente fiscale su questi temi, esperto anche per il Sole 24 Ore, e poi con tanti casi di alcuni ascoltatori che sono pronti a raccontarci il proprio caso. Vogliamo sentirne un altro, Nicoletta? Sì, vorrei sentire Antonio da Bergamo che ci racconta la storia della moglie, un caso sicuramente interessante, ma prima vorrei chiedere al nostro esperto chi ha la doppia cittadinanza, come ci scrive un ascoltatore, rientra in questa casistica oppure non ha problemi, sta tranquillo? Non è una questione di doppia cittadinanza, ma è una questione di residenza fiscale in Italia. Per cui se questo soggetto con la doppia cittadinanza ha avuto residenza fiscale in Italia per uno degli anni dal 2009 al 2013 e non ha dichiarato quindi il possesso di investimenti e o redditi all'estero, in questo caso deve sanare la sua posizione relativamente agli anni in cui è stato residente fiscale in Italia. Chiarissimo. Sempre situazioni al limite, infatti. Chi può aderire, dottor Guffanti? Stiamo parlando solamente di contribuenti, persone fisiche, o anche le aziende possono beneficiare di questa sanatoria? Diciamo che per quel che riguarda la voluntary estera, sono solo quei soggetti tenuti al monitoraggio fiscale, per cui persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e società equiparate residenti in Italia, mentre invece la platea si amplia con riguardo invece a quella che viene chiamata voluntary nazionale, cioè la possibilità di sanare diciamo tra virgolette compensi in nero, vabbè, usiamola questa parola che non è una parolaccia insomma. Assolutamente. Per il fisco altro che perché tutto il mondo è paese, quindi anche all'estero il nero lo fanno e come. Senta, dottor Guffanti, allora, tornando un po' alle procedure, per chi ha magari una situazione abbastanza semplice e lineare e può regolarizzarsi entro il 30 settembre. Lei ci ha spiegato prima che il primo step, il primo passo da fare, secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, è proprio compilare questo modulo che permette di fare una sorta di autodenuncia, no? Autocertificazione della propria posizione. Non è che finisce là, attenzione, perché poi una volta che sono stati trasmessi questi documenti all'Agenzia delle Entrate, dobbiamo anche pagare un po' il fatto che non abbiamo regolarizzato prima, non abbiamo comunicato appunto queste informazioni prima. Quindi si devono pagare, dice l'Agenzia delle Entrate, delle somme dovute. Sono delle sanzioni? In che percentuali ammontano appunto e come si calcolano? Allora, diciamo che il vantaggio premiale dell'operazione di autodenuncia volontaria o voluntary disclosure, come vogliamo chiamarla, non è in termini di imposte e di interessi, perché l'imposta, a differenza di scudi fiscali, si paga nelle misure ordinarie, che siano aliquote progressive IRPEF o imposta sostitutiva. Il vantaggio è nell'applicazione delle sanzioni, che realmente sono in forma molto ridotta, perché per le violazioni del monitoraggio fiscale, se parliamo di un paese non blacklist o perché c'è anche da considerare quell'aspetto che complica ulteriormente un po'. Assolutamente, perché se è un paese whitelist o che ha aderito all'accordo, il 3% normale di sanzione viene ridotto allo 0,5% per anno, mentre invece se si tratta di un paese blacklist il 6% previsto viene ridotto a un 1%. È possibile, diciamo, attraverso un esempio, dottor Guffanti, far passare un po' meglio questo messaggio per capire come si applicano queste tra virgolette sanzioni, no? Che ne so, ho comprato una casa in Francia nel 2010. Non me l'hai detto, non, eh? Prima cosa non l'ho detto a Nicoletta, l'ho data in affitto a qualcun altro. Oggi ho lasciato passare tutte le altre operazioni di rimpatrio, rientro e regolarizzazione, voglio farlo oggi, negli altri anni non volevo farlo. Allora dico all'Agenzia delle Entrate che io ho fatto questa compravendita immobiliare, su che cosa si applica questa sanzione? Sul valore della casa, o ammettendo che io l'ho affittata in questi 4 anni, anche sul reddito che ho percepito da questa operazione? In questo caso la violazione sarebbe duplice, quindi uno... Non contenta, do bisso. Non ho comprato nessuna casa in Francia, comunque lo voglio dire all'Agenzia delle Entrate, la signora Rossella Orlandi, per carità del cielo. Assolutamente, non il notaio conferma, come si suol dire. Allora, diciamo che, dicevo prima, duplice violazione. La prima violazione è di non aver dichiarato la casa in Francia, e sul valore della casa che andava esposto nel quadro RW, normalmente la sanzione sarebbe del 3% per ogni anno. Sul valore della compravendita, se l'ho pagata 150.000 euro, il 3% sul valore totale per anno. Assolutamente. La riduzione è di un sesto, per cui con l'autodenuncia pagherei lo 0,5%. Conviene, insomma, ho fatto bene ad aspettare. Allora. Assolutamente. E soprattutto la riduzione la si sente molto di più per la seconda violazione, perché quanto lei ha incassato come reddito da locazione, che andava denunciato nella dichiarazione dei redditi, sui redditi esteri la sanzione applicabile è del 133%, e aderendo all'autodenuncia questo 133% viene ridotto al 16,67%, quindi un decimo, capisce, che la riduzione è molto rilevante. Tra l'altro tutto ciò si può pagare anche in tre comode rate. Assolutamente sì. Insomma, tutto sommato conviene. Guarda, infatti c'è chi si arrabbia effettivamente, sì, perché dice: noi siamo stati regolari, abbiamo pagato tutto, adesso qua ancora una volta. Cioè, definirla sanatoria direi che è poco. Un'ultima cosa, sì, perché volevo sapere cosa succede in caso di mancato pagamento, un aspetto anche questo importante. Una volta che abbiamo stabilito quello che dovevamo versare, che possiamo versare ora, abbiamo addirittura chiesto una rateizzazione, nonostante gli sconti che il fisco ci fa, però dobbiamo essere regolari anche con il pagamento. E quando va fatto questo pagamento, dottor Buffanti? Allora, al pagamento diciamo che ci sono varie casistiche, ma i termini sono variabili tra i 15 e i 60 giorni a seconda del tipo di atto che viene notificato dall'Agenzia delle Entrate, con la possibilità di rateizzare in tre rate come lei diceva prima. Ma bisogna fare molta attenzione all'aspetto del pagamento, perché il mancato pagamento comporta che la procedura di autodenuncia viene invalidata e l'Agenzia delle Entrate provvede ad emettere un nuovo avviso di accertamento, questa volta però non con le sanzioni ridotte, ma con le sanzioni piene. E per esempio con la Svizzera viene applicato il 3% perché ha firmato l'accordo collaborativo, ma questa riduzione della sanzione vale solo se uno aderisce alla Volanceri, perché se no, altrimenti la Svizzera resta ancora paese blacklist e la sanzione quindi sarebbe del 6%. Allora, da che cosa vuoi partire? Allora, io avevo un appuntamento con Antonio, sì, che dai, poi l'ho un po' illuso, poi l'ho lasciato lì. No, ma insomma, no, dai, dai, Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Scusi, Antonio, ma... Prego, prego. Ho imparato altre cose. Ecco, ottimo. Ci posso dica parlare? Sì. Dunque, mia moglie è francese e ha, dopo la morte dei suoi genitori, un quarto di un immobile che è un'indivisione tra i quattro fratelli. Sì. Questo immobile naturalmente per noi è un costo, quindi non abbiamo mai pensato, cioè visto che non è affittato, non abbiamo mai pensato di denunciarlo, di inserirlo nella dichiarazione dei redditi, e le tasse d'altra parte vengono pagate in Francia. Volevo sapere come mi devo regolare. Grazie Antonio, questa qua è una bella domanda davvero, perché appunto le situazioni come avete sentito sono le più disparate e qua non abbiamo certamente a che fare con... Soprattutto la moglie di Antonio la casa ce l'ha davvero in Francia, non come te. Che così vuol dire che non ce l'ho neanche io. Io l'ho comprata così virtualmente, solo per fare un esempio. Allora, dottor Guffanti, in questo caso pagano le imposte in Francia per questa proprietà immobiliare, ma questo mi lascia immaginare che proprio in virtù di questo fatto, pagando le imposte in un altro paese, non devono dire nulla all'Italia. No, allora, diciamo che per l'immobile in Francia non affittato non andava fatta nessuna dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale fino all'anno 2012. Diciamo che a partire dall'anno 2013 l'immobile in Francia non affittato andava comunque denunciato nel quadro RW, ma io a questo punto consiglierei all'ascoltatore di fare un normale ravvedimento operoso e non la compressa procedura di autodenuncia, in quanto trattasi di un quarto del valore dell'immobile su cui comunque andrà a pagare lo 0,5% perché andranno a fargli poi l'accertamento e quindi potrà fruire della riduzione. In questo caso direi assolutamente ravvedimento operoso, non vedo rischi penali da coprire in un'ipotesi. Non ci genere sono i presupposti per questo. Rischi penali, lei diceva, dottor Guffanti. Adesso, prima di parlare di questi magari e dopo il traffico, in realtà vorrei anche affrontare il caso qua molto diffuso di chi lavora all'estero, che pure richiede attenzione e richiede che le persone interessate si regolarizzino, non tutti naturalmente, perché poi c'è chi se ne va all'estero, prende la residenza fiscale fuori, quindi fa tutta completamente la sua vita all'estero e quindi con il fisco se la vede poi nel paese dove va. Il tema è chi magari ci sta temporaneamente, si apre il suo conto corrente lì, accredita tutto là e poi al fisco italiano italiana non dice niente, pur mantenendo magari la residenza fiscale italiana, per cui in questo caso si può utilizzare questa procedura di collaborazione volontaria. Cercheremo di capire anche quanto costa, poi mi viene anche da ridere, uno va fuori per lavorare e ti sottraggono anche un po', però insomma bisogna essere trasparenti e ligi al dovere fiscale. Ci fermiamo per un po'. Cuore e denari. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano: che bella la casetta in Canada. Eh sì, perché può essere anche la proprietà di una casa all'estero, se non dichiarata correttamente, a metterci in una posizione irregolare rispetto al fisco. Sul tema immobiliare, con i casi che abbiamo ascoltato, speriamo di aver chiarito la questione agli ascoltatori: cosa devono fare entro il 30 settembre per regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano. Stiamo parlando di questo termine complicatissimo, voluntary disclosure, però noi lo traduciamo al volo: collaborazione volontaria per appunto autodenunciarsi su situazioni fiscali non chiare. Ma qua chiaramente noi soprattutto puntiamo l'attenzione sulle situazioni non chiare, in totale buona fede naturalmente. Cerchiamo di aiutare soprattutto questi contribuenti che magari hanno lavorato anche un po' all'estero e però hanno mal comunicato al fisco italiano queste loro situazioni. 800 24 00 24, numero verde per tutte le vostre domande da rivolgere stamattina a Fabio Guffanti, dottore commercialista, esperto di questioni fiscali molto complicate, come ci ha dimostrato oggi, esperto anche sui temi del fisco nei rapporti con l'estero per il Sole 24 Ore. Il Canada, dottor Guffanti, è white list o black list per la casetta in Canada? La casetta in Canada fortunatamente white list, quindi in quanto trattasi di un paese collaborativo, quindi colui che ha scritto la canzone può tranquillamente sanarsela pagando lo 0,5% all'anno. Allora, da chi andiamo? Andrei da Cristina magari, da Roma, sì, perché ci aiuta sul tema che abbiamo lanciato poco fa. E poi abbiamo Paolo dalla provincia di Ancona. Cristina, benvenuta. Sì, buongiorno. Allora, la situazione era un impiego diplomatico, quindi come sta la residenza rimane in Italia, per un periodo di diversi anni, e quindi noi non abbiamo pensato assolutamente di dover denunciare qualcosa. In che periodo, Cristina, peraltro, visto che poi anche il periodo fiscale conta ai fini di questa regolarizzazione? Esatto, è il periodo fiscale interessato, perché è 2010-2013, quindi ci troviamo che tornando in patria abbiamo notato subito l'appuntamento con l'Agenzia delle Entrate. C'era qualcosa da aspettarvi. Mamma mia. Ecco, allora Cristina, aspetti lì intanto. Ma è rientrata da poco? Da questo impiego? 2013. Metà anno, sì, ha ragione, 2013. Esatto. Allora, dottor Guffanti, cosa suggeriamo di fare a Cristina, visto che appunto si accorge stamattina ascoltando Cuore e Denari che sarebbe bene dichiarare al fisco italiano di questo impiego all'estero? Intanto ritirare fuori un po' la documentazione, bastano, non so, le buste paga che avrà percepito presso questo ente diplomatico. A me viene già l'ansia, non bisogna perdere niente. Lo so, no, i documenti, mamma ragazzi, state mia. Attenti, io mi rendo conto che scoccia molti, ma fatevi dei faldoni, che ne so, il faldone della casa, il faldone dello stipendio, quindi del lavoro, il faldone delle bollette. Lo so che è una scocciatura, ma poi capitano queste situazioni e benedite il giorno che avete fatto questa scelta. Guffanti. Allora, semplicemente, francamente non ricordo se il diplomatico in missione all'estero possa tenere il conto corrente all'estero senza doverlo denunciare in Italia, cioè per intenderci se sia assimilato al trasfrontaliero, che poi magari ne riparliamo certo. Dopo meglio, che mentre lavora in Svizzera e ha un conto corrente in Svizzera, non lo deve dichiarare nel quadro RW. Quindi questa casistica del diplomatico che lavora all'estero a occhio mi sembrerebbe assimilabile al transfrontaliero, però ripeto, bisognerebbe approfondire un momentino. Secondo lei dove possiamo andare a cercare questa informazione per l'ascoltatrice? Nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate o addirittura nella normativa originaria, quella del dicembre dell'anno scorso? Secondo me bisognerebbe risalire alle circolari che sono state emanate in materia di monitoraggio fiscale, quindi ancora precedenti alla norma attuale, 2011 piuttosto che certamente precedenti. Questo, ecco, direi che possiamo tranquillamente investire un commercialista di questo lavoro, perché ci manca pure che ci andiamo ad avventurare nella ricerca delle circolari sul monitoraggio fiscale. Che ti piace, Nicoletta, adesso? Allora, a me piace Paolo, non mi sbilancio un po'? Posso dirlo? Guarda, Paolo, buongiorno dalla provincia di Ancona. Mi piace buongiorno. La città che hai buongiorno. Scelto. Buongiorno, certo, così prendo due piccioni con una fava. Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Il mio caso non è un reddito da lavoro dipendente all'estero, bensì una forma di investimento. Ho aderito a con un contratto, mi sembra, di associazione in partecipazione a un'azienda di diritto inglese di Londra. Ah. Faccio un esempio, ho versato 1.000, l'azienda investe nel settore immobiliare e ogni mese mi dà una quota, una percentuale più il capitale a fine, al 13° mese. Ma io guardi, diciamo, poi la chiamo, voglio sapere tutta su questa cosa che ha fatto. Ma non ne abbiamo mai parlato. Dobbiamo assolutamente parlarne, ma guarda quanti spunti che ci danno i nostri ascoltatori e non siamo neanche alla prima settimana di settembre. Pensa tu cosa sarà successo alla fine dell'anno. Paolo, mi scusi, quindi su questa situazione lei dice cosa devo fare? Sì, per fare un esempio, se verso 1.000 mi entrano mensilmente in 13 mesi 1.800, faccio un esempio, sì. Questi 800 che sarebbe l'interesse, il surplus, come devo denunciare? Perché c'è una scuola di pensiero che dice che sotto i 5.000 non vanno denunciati. Però allora, perché quella soglia famosa dei 5.000 euro magari per le partite IVA, dottor Guffanti, che devono fare la gestione separata, insomma, vabbè, situazioni un po' complesse. Qua però l'investimento / lavoro extra di Paolo è veramente una situazione abbastanza complicata. Rientra secondo lei nella casistica delle situazioni da regolarizzare con la voluntary disclosure? Vale la pena anche qua invece fare un... non il monitoraggio fiscale, un monitoraggio attento, operoso, certo, sicuramente, perché dalle cifre che l'ascoltatore dice non vedo assolutamente riflessi di natura penale, per cui varrebbe soltanto la pena che lui integrasse i modelli unici presentati negli anni precedenti con la compilazione del quadro RW, dove dichiara l'investimento all'estero, cioè questa associazione in partecipazione, che la vedo molto simile alla partecipazione a un fondo comune, e a questo punto poi dichiara anche i redditi che lui percepisce così da quello che il contribuente dice. Bisognerebbe adesso capire se hanno natura di reddito di capitale piuttosto che di reddito diverso di natura finanziaria, ma indubbio che l'aliquota di tassazione è il 20% fino al 1 luglio 2014. Dice poi 26%. Quindi... Allora, qua certo che abbiamo intanto esplorato un po' tutti i casi possibili, dal lavoro all'estero all'immobile all'estero, e qua un investimento / lavoro all'estero, perché per Paolo la situazione è duplice. Ci sarebbero tante cose da dire, speriamo intanto di aver chiarito la scadenza molto chiaramente. Se siete 30 interessati, settembre. Esatto, a regolarizzare, comunque fatelo al più presto, poi magari arriva anche la proroga e tutti i commercialisti sono contenti. Nel frattempo però io vi do un'altra scadenza: nel pomeriggio trovate l'approfondimento del dottor Scialtone riguardo alle lenti cosiddette bioniche, di cui abbiamo accennato nella prima parte della trasmissione, che sembrerebbero rivoluzionare anche i futuri interventi, futuri perché non sono ancora disponibili. Se volete ottimo. Saperne di più, nel pomeriggio approfondimento sulla pagina di Cuore Denari. Ottimo, allora oggi è venerdì, siamo sicuri, posso salutare per il weekend, non è che mi sbaglio. Ricordiamo anche che da lunedì andiamo in trasferta di nuovo per tutta la settimana con Cuore Denari, saremo saremo ad Expo, così come con tante trasmissioni. Padiglione Cibus è Italia, di Cari Parma, e quindi insomma ricordate, passate anche magari a trovarci. Buon weekend a tutti.